Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Pubblico caldo. Si lancia per lui, c'è Llorente regolare, tutto solo Llorente, il dribbling è Llorente, a rete, e Llorente, e la Juventus è in vantaggio, sblocca la partita al quarto del secondo tempo, contropiede micidiale. Sì, era una partita importantissima, lo sapevamo da prima che solo potevamo vincere. Molto contento perché penso che la squadra ha fatto una grande partita, contento, no? Per un lancio verso Morata, Johansson a rimorchio, Pogba c'è Tevez tutto solo, Tevez l'appoggio, a rete, e la pasce, e 2-0 Juve nel finale sul contropiede micidiale. Sì, io penso che il primo tempo non giocavamo bene, non incontravamo l'spazio per giocare, ma dopo nel secondo subito incontriamo il gol e questo non quiso aprire la partita, no? Carico come i giorni belli, eh? Sandro Piccinini, saluto Fabrizio Biasin, ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, buongiorno a tutti. Carichissimo, serata epica, notte epica a Malmo, 800 24 00 24, se volete dirci che cosa ne pensate. Franco Piattanini, autore di questo programma, Daniele Buonamici in redazione, Roby Scaltritti, l'ultimo Roby Scaltritti, sulla tolda del comando di tutti i convocati. Oh, in realtà non è successo niente di epico ieri sera a Malmo, semplicemente la Juventus ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, anche se questa mattina il 2-0 contro gli onesti svedesi è stato raccontato dai giornali italiani come superbo, come una grande impresa. Secondo me di epico non c'è nulla. Ma non tanto, anche perché invece viceversa i giornali svedesi si sono presa parecchio con la direzione arbitrale. Francamente diciamo che l'arbitro non ha inciso più di tanto. Mi rimarrà di questa partita il ricordo di un campo sceno e di un paio di belle giocate. Per il resto la Juve ha fatto il suo dovere. Beh, non male il gol di Llorente, sì. Anche perché quel campo lì era il campo adatto per fare brutta figura col pallone lì per terra incollato, diciamo, al piede. Llorente ha dato una lezione a due giocatori Vincelli come il Sharawi e Icardi, come si fa a saltare il portiere? Sì, Icardi e a tutti gli altri, bel gol. Poi cercheremo di capire qual è la prospettiva in Europa della Juventus, cioè se ci dobbiamo limitare al piccolo cabotaggio degli ottavi di finale o magari dei quarti se va bene, oppure se dobbiamo attenderci qualcosa di più importante. In tanti oggi scrivono, ecco il salto di qualità europeo della Juventus, poi in realtà avremo la prova fra un paio di settimane, la prova del biscotto, perché con quelle prime dei gironi che si vanno delineando, io faccio qualche nome: Real Madrid, Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona molto probabilmente, quasi sicuramente il Borussia Dortmund, certo poi c'è il Porto, c'è una squadra più abbordabile che arriverà dal girone C. Però secondo me con queste prospettive la Juventus ha il dovere morale fra due settimane di cercare il 2-0 contro l'Atletico Madrid, di cercare il primo posto nel girone, anche a costo di rischiare qualcosa. È la prima cosa che ha detto ieri sera Allegri dopo la partita: vogliamo il primo posto nel girone, e fa bene a ragionare così perché è il ragionamento di un allenatore che sa di avere una grande squadra. Agnelli pretende uno dei primi 8 posti e Allegri si comporta di conseguenza. ci sono i fatti, perché dopo la partita con la Lazio in campionato è arrivata questa bella vittoria in Europa, ma non basta, ci vuole il primato nel girone, bisogna battere l'Atletico Madrid e la Juventus ce la può fare. Sì, anche a costo di rischiare qualcosa, perché poi le partite, come racconta quello che è successo alla Roma a Mosca, le partite in Champions League nascondono mille trappole. 800 24 00 24, io saluto l'amico che ha scritto un SMS dicendo: siete patetici, ma che serata epica, hanno vinto contro il Malmo. Amico, ascolta bene, traffico. Si approccia col fatto che bisogna cercare di vincere, cercando di vincere con due gol di scarto, per cercare di arrivare primi, perché arrivando primi sicuramente nel sorteggio potremo avere la possibilità di incontrare una seconda, altrimenti bisogna incontrare una prima e potrebbe diventare tutto più difficile. Partita in bilico, spot per noi. Convocati. No, la qualificazione abbiamo ancora da conquistarla, abbiamo un palio ancora al primo posto, quindi cercheremo di prepararci al meglio, dobbiamo fare, perché non sarà una partita semplice, tutt'altro, loro saranno già qualificati, però avranno da difendere il primo posto e noi dobbiamo cercare di provarci. Sì, non c'è spazio per il biscotto fra due settimane a Torino, biscotto che sarebbe un bel pareggio. Atletico Madrid è già certo di qualificarsi, sarebbe certo del primo posto, la Juventus eviterebbe ogni problema, sarebbe qualificata anche se da seconda del girone, però ripeto, se la Juve va oltre il piccolo cabotaggio di passare a febbraio e sperare poi di pescare il Porto o l'altra abbordabile, secondo me la Juventus deve anche rischiare e cercare in tutti i modi quella vittoria con due gol di vantaggio che le varrebbe il primo posto. Il sorteggio agli ottavi è pericolosissimo da seconda, l'abbiamo visto nelle scorse stagioni. Noi ora purtroppo ragioniamo da piccolo campionato e quindi ci accontentiamo degli ottavi. La Juve non lo deve fare, deve pensare che ha a disposizione questo primo posto, che non dico ti spiana la strada, perché poi dipende molto dalla fortuna anche il sorteggio a prescindere, però diciamo che ti dai una mano, e la Juventus in questo momento ha bisogno di darsi una mano. Poi chiarisco ancora agli amici da casa, secondo me ha fatto il minimo sindacale ieri sera la Juventus, il minimo sindacale vincendo a Malmo, squadra numero 132 del ranking UEFA, anzi secondo me l'ha fatto con un tempo di ritardo, perché nel primo tempo si sono visti vecchi fantasmi. Diciamo che siamo stati noi media giornalisti a aver pompato un po' troppo forse questa vittoria, però è anche il bello delle cose, ci sta, perché è da tanto che non abbiamo soddisfazioni in campo europeo, per cui vedere comunque una delle nostre che va avanti o quantomeno ci prova è molto bello. Sono molto curioso di sapere come hanno passato la serata ieri i giocatori della Juventus dopo che i colleghi della Roma siano rientrati in albergo. Tra l'altro Sabatini ha detto pochi minuti fa: i giocatori della Roma avevano il permesso della società di stare 2 ore fuori dall'albergo dopo la partita, magari qualcuno è stato fuori 2 ore e mezza, ma noi siamo una società liberale. Anzi, è bello che siccome dovevano svagarsi dopo aver visto anche il risultato di Manchester, l'abbiano fatto in amicizia, facendo qualcosa di godibile. E comunque per fare certe cose bastano anche 10 minuti a volte. Sì, ma vogliamo dire che c'è stato anche un eccesso di moralismo, insomma, per a parte che le foto si vede Borriello fuori dal locale, punto. Ma personalmente io l'ho detto ieri, cioè da cosa ci aspettavamo da dei giocatori di 25 anni milionari che andassero al Bolshoi a vedere il balletto? È normale che facciano certe cose. Poi certo, nel rispetto della famiglia. Sì, difatti Totti è rimasto chiuso in stanza. Oh, ieri abbiamo visto anche un Allegri scatenato, eh? Aspetta, ti faccio sentire un file. Sì, cerca di cancellare l'immagine di allenatore pacato, tranquillo, sereno, quello del dai sì, che aveva sì. Sulla panchina del Milan. È cambiato Allegri, sembra più libero di esprimersi. A Milano aveva troppi paletti, forse più mentali suoi, diciamo, che concreti. Però è vero che qui a Torino ha trovato la libertà di dire, fare quello che vuole, anche perché quando ci sono i risultati c'è più possibilità di esprimersi, e diciamo che si sta esprimendo anche in maniera accesa. Sì, intanto la Juve con la difesa 4 piace, perché comunque ieri nel secondo tempo ha fatto una buona partita. 800 24 00 24, ci interessa anche sapere cosa ne pensate voi da casa. Andrea da Chieti, cominciamo da lui. Andrea, Salve, prima convocazione per me, un saluto a tutti. Ciao, ciao Andrea, prego. Allora, io sono un simpatizzante juventino, non fanatico, amante del calcio internazionale. Io prendo spunto da quello che è accaduto ieri. Sono d'accordo con lei, Capuano, è il minimo sindacale battere il Malmo, però io voglio porre a questo punto l'attenzione sul grandissimo lavoro che sta facendo Allegri, questo allenatore che è stato accolto in malo modo dalla tifoseria con striscioni offensivi. Sta invece facendo un grandissimo lavoro perché ha ereditato una squadra spremuta da Conte dopo 3 anni di tonfi italiani, con la quale poteva solamente far peggio. Siamo quasi a dicembre e primo in classifica in campionato e voglio vedere adesso cosa diranno quei tifosi che lo hanno accolto così malamente se dovesse ottenere un passaggio agli ottavi. Io credo che Allegri vada fortemente rivalutato e gli vada riconosciuta una grande abilità come tecnico. Cosa dovrebbero dire, Andrea? Perché secondo me il passaggio agli ottavi è meno del minimo sindacale come cammino in Europa per la Juventus. Ma i risultati che ha ottenuto Conte a livello internazionale. Conte è stato eliminato dal Galatasaray, è stato eliminato prendendo 5 gol nel doppio confronto col Bayern Monaco l'anno prima. E se Allegri dovesse ottenere un passaggio agli ottavi con un grande introito economico per la società, io credo che i tifosi a questo punto debbano ritenersi soddisfatti. Perché io da tifoso juventino, da simpatizzante juventino, dopo 3 anni di trionfi italiani, 3 scudetti consecutivi, se la statistica vale qualcosa, il 4º scudetto consecutivo mi sembra un'impresa. Io sarei soddisfatto quest'anno con un passaggio agli ottavi è un approdo in Champions League anche con un secondo o terzo posto in campionato. Io non sono un tifoso che pretende io credo che arrivando terzo in campionato o secondo in campionato e qualificato solo agli ottavi di finale, Allegri sarebbe preso a pietrate a fine stagione a Torino. Però questa è la mia opinione, Andrea, Lo so, io ecco, dissento un attimino, io sì, pietrate non metaforiche, pietrate metaforiche, ok? Andrea, sei un po' una mosca bianca e non so se i tuoi compagni di tifo sarebbero contenti come te, perché dopo 3 scudetti, sai come si dice, l'appetito viene mangiando, uno si aspetta sempre di vincere. No, ma poi c'è questa leggenda per cui le italiane in Europa siano destinate a fermarsi prima, una squadra che ha Tevez, a Llorente, a Morata, a Pogba, a Vidal, a Marchisio, a Pirlo, a Buffon, della Juve, cioè, io non riesco a capire perché non debba pensare di essere competitiva per arrivare avanti. Io non dico vincerla, ma arrivare avanti, altro che qualificazione alla fase di eliminazione diretta. Mimmo da Roma, Mimmo. Salve, tifoso juventino. Eccoci. Convocato. Contento solo della qualificazione eventuale, anche se non arrivasse altro a fine stagione, come diceva Andrea? Oppure questa Juve deve pensare ad altro? No, la Juve deve pensare ad altro. Mi rammarico della Roma, nel senso che poteva fare di più. Io pur da tifoso juventino spero che ne passino tutte e due agli ottavi, perché insomma l'Europa è molto lontana da noi e invece ce la dobbiamo tenere stretta. E volevo fare una differenza appunto tra le due squadre. Probabilmente la Roma di quest'anno ha pagato forse troppo e quello che probabilmente a livello mentale la Juventus pagava fino a 2 anni fa, anche l'anno scorso, di non reggere la partita. La differenza vera è che la Juventus fino all'ultimo ha creduto, ha fatto il 2-0 e quindi ha più chance quest'anno di ottenere gli ottavi. E l'avesse fatto la Roma a Mosca probabilmente staremmo parlando di un ciclo diverso. Sì, detto che il 28 agosto, dopo il sorteggio, la Roma avrebbe firmato per arrivare padrona del suo destino in casa nell'ultima contro il Manchester, perché c'è anche una differenza di peso di gironi. Mimmo, diciamo che i due gironi messi a confronto fanno un po' spavento, nel senso che quello della Roma è davvero un girone complicato. È vero che la Roma si è complicata la vita da sola, ma è anche vero che pensare di giocarsi la qualificazione all'ultima giornata, probabilmente a settembre ci avrebbero messo la firma. Sì, intanto oggi siamo anche in un giovedì post Champions che porterà l'esonero di Prandelli. Te lo faccio sentire ieri dopo la partita persa 2-0 a Bruxelles con l'Anderlecht. Io continuo col Galatasaray, dispiace tantissimo essere usciti dall'Europa, ma siamo dei lavoratori, siamo dei professionisti seri e quindi assolutamente non pensieri di abbandonare nessuno. Io devo rispondere alla partita di questa sera e sono a disposizione. Mi assumo tutte le responsabilità. Se parliamo della partita, rispondo. Se parliamo dell'ipotesi non posso dare nessun tipo di risposta. Parlate con i dirigenti e poi avrete delle risposte. Come faccio a fare una trattativa? Chi stiamo scherzando? Pallone ancora verso il centro, salta le tre, lo vuoi in vantaggio. L'Uruguay è in vantaggio, ha segnato Godin. Come al solito Godin. Sono 156 giorni esatti, da quel 24 giugno a Natale, Italia-Uruguay 0-1, fuori dai mondiali, dimissioni, poi il contratto col Galatasaray, poi un'avventura difficile perché in Champions è arrivato un solo punto e il Galatasaray è fuori da tutto, anche dall'Europa League, in campionato le cose non vanno benissimo, persa la Supercoppa turca. Morale a ore, a minuti forse, dovrebbe arrivare l'esonero di Prandelli che secondo me paga anche un po' di scelte sbagliate, insomma è stato un 2014 che è andato tutto storto. 2014 terribile, tu dici paga, ma può pagare perché qualche soldino se l'è messo in tasca, per cui diciamo che gli è andata bene per quanto riguarda il conto in banca, malissimo per quello che è l'aspetto professionale. È il 2014 terribile per Prandelli e per i prandelliani, chiamiamoli così, perché insieme a lui anche Balotelli e Cerci se la passano malissimo. Sì, poi lui ha spiegato il suo punto di vista, ha detto mi avevano promesso mille cose, c'era un progetto, abbiamo trattato i Barbo, Pato, Doria, Balanta, Marcelo, Douglas, Campbell, Song, poi la trentina alla fine, di giocatori. Sì, poi alla fine il presidente mi ha chiamato e con parole gentili mi ha detto che erano finiti i soldi e quindi non c'era più il progetto. Perché erano finiti tutti nelle sue tasche, sì, evidentemente. Forse anche questo, però non c'è solo l'aspetto economico. No, certo, certo. Io credo che probabilmente oggi, tornando indietro, Prandelli resterebbe fermo dopo il mondiale. Che è un po' quello che ha fatto Mancini alla fine della scorsa stagione, ha salutato tutti quanti e se n'è andato, rinunciando anche all'ingaggio. Vediamo se Prandelli fa lo stesso, io non credo, ma è anche legittimo da parte sua. No, non credo nemmeno io. 800 24 00 24 Borsa. Andrei da Nando San Vito. Seguiteci su Twitter, tutti convocati. Tutti convocati. Artisio, Simone Tevez, il lancio per Lucia, Llorente, Llorente regolare, Llorente regolare, tutto solo Llorente, il dribbling è Llorente, a rete, a rete, è Llorente, e la Juventus è in vantaggio, sblocca la partita al quarto del secondo tempo, contropiede micidiano. Per un lancio verso Morata, Johansson, a rimorchio Pogba, Pogba, Pogba, c'è Tevez tutto solo, Tevez l'appoggio, e rete, e rete, e la pace, e 2-0 Juve nel finale sul contropiede micidiale. Il secondo tempo mi sono arrabbiato perché bisognava fare gol dopo il vantaggio di Llorente, abbiamo avuto due o tre occasioni abbastanza clamorose, bisognava chiuderle perché dopo alla fine una palla lunga, un rimpallo che ti rimane lì, e rischi di pareggiare una partita, visto che già in Grecia c'è successo, a Madrid è la stessa roba, stasera sicuramente la preoccupazione di che succedesse come è successo in quelle altre due partite c'era, quindi quando c'è da far gol bisogna farlo. Viva Spagna! Sì, si è visto qualche vecchio fantasma, soprattutto nel primo tempo. C'era anche quel campo lì di Malmo che ricordava lontanamente quello di Istanbul dell'anno scorso. Pessimo. C'era la squadra avversaria chiusa, c'era la difficoltà a fare gol, c'era anche qualche segno, credo, di fragilità psicologica di una squadra consapevole che da due anni non vinceva in trasferta in Champions League, che nelle ultime sei aveva fatto un pareggio e cinque sconfitte, e questo avrà pure significato qualcosa arrivando a questa partita. Sì, però bisogna anche dire che Allegri l'ha preparata bene proprio dal punto di vista della comunicazione, cioè il giorno prima dice noi andiamo a vincere perché dobbiamo vincere, insomma non ha messo alibi ai suoi, e credo che questa sia la mentalità giusta da mettere in Europa, perché in Italia lo sappiamo, la Juventus è la più forte, in Europa fuori dall'Italia devono ancora capirlo, secondo me stanno capendo che questa è una squadra che comunque può fare paura a tutti. Sì, mi piace il parallelo di Andrea che ha scritto un SMS. Possiamo dire che Allegri sta a Conte come Capello stava a Sacchi? secondo me sì, soprattutto nel coraggio di cambiare le cose. Ha iniziato Allegri tenendo la Juve di Conte, c'è poco da fare, da un paio di settimane a questa parte ha completamente cambiato, gli ha dato un suo segno, evidentemente aveva un progetto in testa. io l'avevo sottovalutato, se devo essere sincero. Guarda, io prima di te, nel senso che il giorno dell'annuncio di Allegri mi sono permesso di scrivere su Libero che la Juve faceva una scelta sbagliata, errata, che avrebbe pagato nel breve periodo. La verità è che invece Allegri ha sorpreso tutti. Ci aveva lasciato una brutta immagine di sé al Milan, quella dell'allenatore sempre ubbidiente, il classico signor sì. E invece ci ha dimostrato che non solo è bravo sul campo, ma è bravo a gestire tutte le situazioni. Ha fatto una grande rivoluzione alla Juventus, ma non ce ne siamo accorti, quasi come una magia. E adesso riesce a schierare i quattro centrocampisti top tutti assieme, ed è un piccolo capolavoro. Pier, dica. Ci sei? Ci sono, buongiorno. Buongiorno. Ciao, a te. Come va? Bene, siamo tra il superbo dell'impresa della Juventus che ha sbancato Malmo al minimo sindacale che ha fatto. Questa è la nostra, questo è il nostro pensiero lo chiariamo ancora, perché gli amici da casa continuano a dirci: siete patetici, ma come, hanno vinto contro una squadra impresentabile, ha fatto il minimo sindacale. Sì, hanno fatto quello che dovevano fare, cioè non è che siccome l'avversario non è clamoroso, allora se vinci ti devi sentire in colpa. La Juve ha fatto quello che doveva fare. C'è un verbo inglese che è to deliver, che vuol dire proprio consegnare, in senso tecnico, e si usa nel marketing, no, il deliver, cioè consegni una cosa, devi fare una cosa e la fai, e questo è quello che ha fatto la Juve ieri, e non è scontato riuscire a fare quello che devi fare, quindi la Juve deve essere contenta, deve essere felice. Poi da qui al trionfalismo, insomma, io aspetterei un po', anche perché, come spesso diciamo, il calcio è liquido, per cui insomma 20 giorni fa, dopo la sconfitta di Genova, c'era il panico, adesso si parla giustamente di grande Juve perché le ultime prestazioni sono state di alto livello. Io sono di quelli, lo sapete, che Allegri l'ha sempre stimato, e quest'estate ha ricordato il fatto che era una scelta migliore che la Juve potesse fare in quel momento. E l'alternativa era Mancini, ma insomma poteva prendere uno dei due, quindi non è che c'era molto altro in giro, e secondo me i risultati cominciano a venire fuori. Mi rendo conto che poi sembra fare 0-0, ma è come quei calciatori che dicono: non ci si abbatte nelle sconfitte e non ci si salta nelle vittorie. Allegri per me è sempre stato bravo, lo pensavo prima, lo penso ancora adesso, non mi sta neanche stupendo del tutto, perché lo sapevo che era bravo, però insomma, detto questo, poi la stagione è lunga, non è che abbia ancora fatto niente la Juve, insomma. Sì, prova del biscotto ce l'avremo fra due settimane, prova importante, perché si capirà quale. Non pensiamo al biscotto, però pensiamo e vedremo l'atteggiamento della Juventus. Secondo me la Juventus ha il dovere morale di cercare il primo posto nel girone, altrimenti si consegna al piccolo cabotaggio di un sorteggio difficile, magari di un'eliminazione agli ottavi di finale, alzando le mani dicendo: e beh, però noi a quei livelli lì, quelli magari del Real, del Bayern, del Barcellona, non ci possiamo stare. No, su questo sono d'accordo, perché la tendenza degli ultimi anni, ne parlavamo anche ieri, è che le grandissime sono sempre più forti, cioè il mondo del calcio purtroppo si sta alla forbice tra grandissimi e grandi, si sta allargando, per cui quello che è successo l'anno scorso e che potrebbe succedere quest'anno è che le prime, le squadre che vincono il girone sono veramente le migliori, cosa che fino a qualche anno fa insomma era un po' più annacquata. Per cui, al di là di qualche eccezione, sicuramente nel girone del Bayer Leverkusen la squadra che uscirà fuori, sì, c'è sarà quella, c'è che quel tutti gruppo lì, no? Ecco, c'è forse il Porto, ammesso che il Porto sia una squadra abbordabile. Ricordiamoci che l'anno scorso il Benfica alla fine ha tolto alla Juve il sogno della finale di Europa League, per cui noi ci ostiniamo a considerare abbordabili le due migliori portoghesi, ma non è detto che sia così. Però meglio il Porto del Bayer di Monaco, però il resto sì, per proprietà è un sorteggio che eviteremo. Benfica, che l'anno scorso ha tolto la finale di Europa League alla Juve, è quarto, staccato, eliminato in un girone con Bayer Leverkusen, Monaco e Zenit, quindi vuol dire che chiunque, che anche quelle squadre lì sono da rispettare. Però ecco, insomma, se dovesse arrivare seconda la Juve, io credo che chiaramente insomma evitare Real Madrid, il Chelsea e il Bayern e quella che arriverà prima fra Paris Saint Germain e Barcellona sarebbe la priorità assoluta, però non è detto che sia così scontato. Sì, noi apriamo però oggi la campagna, 9 dicembre, la Juve deve vincere 2-0, 800-24-00-24, se siete d'accordo telefonate, se non siete d'accordo telefonate lo stesso, se non me ne frega niente, telefonate comunque. Davide da Pisa, Davide. Ciao a tutti, Davide Attiglia convocato. Premesso che sono un pisano che lavora a Livorno e quindi tutto sommato Allegri alla fine mi sta pure simpatico. Sì. Arrivo anche al fantacalcio del 97-98, qualcosa del genere, quando giocava al Perugia, se non sbaglio. Sì, era un buon acquisto al fantacalcio Allegri. Esatto. Centrocampista, offensivo, segnava. Esatto. Tutto sommato quindi mi faceva un po' di simpatia. Devo dire che io però sono tra gli juventini che si è messo le mani tra i capelli virtuali, visto che era solo caldo, che ho avuto, perché sinceramente, francamente, un allenatore che invece non mi ha mai convinto fino adesso, nel senso che era uno che ha stravinto un campionato tra Ibrahimovic, Thiago Silva e compagnia cantante, l'anno successivo non è riuscito a vincerlo con una Juve che veniva da anni derelitti, con un nuovo allenatore, è vero, ma ancora tutta da costruire, è riuscito a perdere pure quel campionato lì, e il terzo anno è arrivato terzo grazie agli arbitri, insomma il quarto anno si è fatto esonerare. Francamente non era un profilo che mi entusiasmasse. Sì, però sta facendo, Davide. Esatto, a me sembra esatto. Che il voto di questi primi tre mesi di Allegri in questa stagione non possa che essere ampiamente sufficiente, o no? E io sono d'accordo, infatti questo volevo dire, che vista la simpatia e visti i risultati che sto ottenendo, e soprattutto le ultime settimane, devo dire, che perlomeno ci stanno dando qualcosa di nuovo, di fresco, insomma, la fece giocare con 3-5-2 di Conte, con gli stessi uomini di Conte, o giù di lì, insomma, probabilmente con una panchina migliore di quella che aveva Conte, sommato era veramente il minimo sindacale. Se ci fa arrivare primi al girone, veramente sposo la causa di Allegri. Sì, gli diamo un bel 7,5, Pier, però se arriva primo nel girone, altrimenti è minimo sindacale, io insisto su questo concetto. Minimo sindacale, con però la sensazione di un trend, come dicono quelli bravi, di crescita, perché la Juve ha vinto le ultime 5 partite, in 4 di queste ultime 5 partite non ha subito gol, nelle ultime 4 partite ha cambiato difesa e ha sempre vinto, insomma ci sono dei segnali che potrebbero essere importanti per il futuro, potrebbero, poi magari verranno smentiti. La sensazione è che dopo una fase di rodaggio nella quale aveva scelto lo stesso modulo di Conte per rischiare il meno possibile, abbia innestato la sua marcia, la sua filosofia, e i risultati stiano cominciando ad arrivare. E se è così, allora poi la stagione può diventare veramente molto divertente per la Juve. Però siamo in un momento dell'anno nel quale secondo me bisogna stare molto attenti, nel senso che è vero tutto il contrario di tutto, insomma, tornando per un istante alla Roma, adesso oggi uno prende i giornali, legge The Night, c'è un clima di depressione assurda, la Roma è nelle condizioni perfette per potersi qualificare, cosa che nessuno pensava dopo il sorteggio, ed è a meno 3 dalla Juve, insomma, quindi attenzione prima ci vuole un po' di equilibrio, quello che ha un nostro amico che scrive: per fortuna il Galatasaray si è preso Prandelli dopo le dimissioni, pensate fosse stato libero dopo l'addio di Conte, eh? Tutti convocati. Sì, poi c'è chi scrive: già fare 1-0 con l'Atletico sarebbe un buon risultato, e tu vuoi il 2-0, cosa volete di più? No, noi abbiamo detto, la Juve ha il dovere morale di inseguire quel primo posto che apre a un sorteggio non di piccolo cabotaggio. Saluto Giancarlo Marocchi, ciao Giancarlo. Ciao a tutti, ciao Giancarlo. Al dovere morale di andare oltre la semplice qualificazione agli ottavi di finale. Certo che sì, però l'obiettivo grosso è la qualificazione, quindi diventa anche complicato scegliere. Per noi che dobbiamo commentare è facile dire bisogna cercare assolutamente il 2-0, e sarebbe stato molto più bello e facile cercarlo con il rigore di Vidal realizzato. Pensa quanto può pesare quel calcio di rigore sbagliato all'ultimo minuto della partita contro l'Olympiacos. Sì, però posso dire, può pesare pure il gol, quello un po' fortunoso del 2-2. Io credo che la Juve adesso non debba farsi dei fantasmi nella testa. Le cose si sono messe bene. Il rimpianto, certo, di quel rigore c'è, ma ci può essere anche il rimpianto dell'Olympiacos, che ha perso 3 punti a Malmo contro la squadra più debole del girone. Con una prestazione diversa, adesso stava in una botte di ferro, quindi i rimpianti secondo me e le chiacchiere stanno a zero. La Juve è in un'ottima situazione, deve pensare positivo, anche perché insomma non puoi campare di quello che che hai fatto fino adesso. La speranza della Juve in chiave europea è che la svolta della difesa a 4 funzioni. Se questa cosa dovesse continuare a funzionare, si è vista nelle ultime partite, allora la Juve quest'anno può divertirsi anche in Europa. Altrimenti, per carità, qualificarsi è meglio che non qualificarsi, sono 10 milioni e tutto il resto. Però insomma, io penso che quest'anno possano venire fuori cose un pochino più interessanti. Sei d'accordo, Giancarlo? Ambizione. Sì, soprattutto che bello quando ci si consolida in Europa, che poi vuol dire semplicemente vincere, normalmente vincere 9 volte su 10 in Svezia, ma anche in Danimarca, quello che non è successo per 2 anni consecutivi. Ecco, io spero che da qui in avanti la Juve, poi che venga raggiunta anche dalla Roma magari l'anno prossimo e dalla terza che si qualificherà, che almeno in quei paesi si vada per vincere, si vinca appunto 9 volte su 10. Ecco, noi chiediamo poi solo questo. Sì, l'abbiamo detto all'inizio, la Juventus ieri sera ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, ha fatto un'impresa epica, ha fatto quello che doveva fare. Giancarlo, ti leggo le parole di oggi di Walter Sabatini a proposito della Roma e della nottata luci rosse. Ha detto Sabatini: i giocatori avevano il permesso della società di stare 2 ore fuori, poi magari qualcuno è stato fuori 2 ore e mezza, ma noi siamo una società liberale. Dopo i risultati che venivano da Manchester, avevano bisogno di rilassarsi un po', hanno fatto amicizie con Patti, è bello che il gruppo stia insieme anche per fare cose godibili. Hanno esagerato un po' tutti con questa storia del nightclub? Ma certo. Certo che hanno esagerato. Ecco, se fossero stati fuori insieme anche a Sabatini e a Garcia, allora va bene anche sbagliarsi, entrare in un locale a luci rosse, magari stare 2 minuti e dire, fare 2 risate e uscire. Solo i giocatori non è bello, e poi ci sono momenti e momenti, ma anche quando si vince dopo la partita, cioè mangiare 2 piatti di pasta e gambe in alto è meglio, perché poi c'è da vincere in campionato. Cioè la Roma in questo momento sta facendo un miracolo in campionato, che è aggrappata a 3 punti dalla Juve, praticamente sta giocando senza difesa, ma non l'ha scontro tutti, e perché non ci sono Castan, non ci sono Maicon, quindi quello che sta facendo, secondo me, è ottimo a livello di risultati in campionato, quindi non si va in generale fuori la sera. Ecco. Sì, il problema è che avevano pareggiato quella partita lì. Ma che devi fare? Mi porti il lutto al braccio. Dai, adesso sinceramente l'unico problema eventuale può essere fidanzate e moglie, ammesso che sia avvenuto qualcosa che non credo sia successo, perché da quello che mi risulta era una goliardata. È giusto chiaramente che la stampa russa e il fortunato fotografo si sia venduto le foto e le abbiano fatte vedere, ci mancherebbe altro, fanno il giro del mondo, noi le proponiamo, ne parliamo, perché questo è un meccanismo mediatico, lo conosciamo bene noi e lo conoscono benissimo anche i giocatori. Detto questo, l'errore peggiore che l'ambiente di Roma potrebbe fare dopo una partita comunque se non è buona come quella contro il CSKA, perché la prestazione rimane una cosa positiva, è, siccome hanno visto queste 4 foto, adesso processare una squadra, e sono d'accordissimo con Marocchi, che sta facendo bene in campionato e sta facendo benissimo in Europa, perché non ci dobbiamo dimenticare il punto di partenza, altrimenti diventiamo schizofrenici. La Roma, c'era chi diceva dopo il sorteggio, c'erano i tifosi della Roma che era destinata al 4° posto, dicevano sì, la Champions è meglio non farla, perché leva energie sul campionato. Siamo arrivati a 90 minuti dalla fine con la Roma che ha buone possibilità di passare il turno, potevano essere ottime, poteva essere già passato il turno, amen, però veramente la valutazione dei giocatori secondo me deve essere positiva. Poi quella roba lì, io mi affido all'esperienza di Marocchi, può essere goliardia, può invece non andare bene, ognuno ha la sua sensibilità, ma insomma la domenica sera essere... i locali della Movida Milanese sono pieni di giocatori che hanno tutto vinto, perso e pareggiato, soprattutto in questo caso ci sono le foto Italia. Ma a me piacerebbe vedere cosa fanno tutti i giocatori di tutte le squadre a 25 anni dopo una partita di Champions giocata in qualunque capitale europea. È normale, perdoniamogli, non hanno fatto niente di scandaloso. Ce la fa la Roma, Giancarlo? Oddio, che domanda difficile. Se non ne hai una di riserva, ti rispondo da tifoso, e quindi ce la farà. Solo che sai che c'è un grosso problema della Roma di quest'anno, che l'anno scorso i difensori si arrangiavano a difendere e anzi davano anche una mano in avanti con i gol di Benazia e con tutte le discese in avanti di Maicon, dietro Castan da solo li marcava tutti. Quest'anno c'è in particolare De Rossi, ma anche gli altri centrocampisti e gli attaccanti che devono aiutare la fase difensiva, ed è di lì che il gioco della Roma è un po' più farraginoso, non è bello e spettacolare come quello della Maroc. C'è qualche problema in più, Piero, abbiamo il GR. La Roma aveva due punti di riferimento l'anno scorso, i due centrali dell'anno scorso sono uno a Monaco di Baviera e l'altro ha cose più importanti a cui pensare in questo momento, e non è un dettaglio. No, c'è, anzi, c'è qualche problema in più Ripeto, Roma è una città che vive di clamorose esaltazioni e di clamorose depressioni. Ci vuole equilibrio. Oggi è il 27 novembre, la Roma è in corsa per tutto, fin qui sta facendo bene con un sacco di emergenza. Grazie Giancarlo Marocchi, saluto anche Fabrizio Biasin. Grazie a voi, ciao ragazzi. Pier, ci ritroviamo fra qualche minuto. Quote e pronostici. Giovedì chiave in Europa League per le italiane impegnate. Si parte alle 19 con la Fiorentina che gioca sul campo della Ginghamp. Vediamo dunque assieme le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria del Ginghamp, è quotata a 2,85. L'X è a 3,20. Il 2 invece, con il successo dei Viola che sono favoriti, è quotato 2,50. Interessante la quota del gol a 1,90. Il no gol è quotato 1,80. Per il Napoli invece, trasferta in Repubblica Ceca contro lo Sparta Praga. Si gioca alle 19. L'1, la vittoria dello Sparta, è quotata 2,70, l'X è a 3,30, il 2 invece, con la vittoria del Napoli, è quotato 2,55. Alle 21 poi il Torino attende l'avversario più duro, perché all'Olimpico c'è il Bruges. L'1, la vittoria di Granata, è quotata 2,10, l'X è a 3,30, il 2 è quotato 3,50. Chiudiamo con il secondo esordio di Mancini sulla panchina dell'Inter in Europa. A San Siro alle 21 arriva il Dnipro. L'1, la vittoria dell'Inter, è quotata 1,70, l'X è a 3,65, il 2 invece, con la vittoria degli ucraini, è quotato 5. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Importante, perché comunque l'Europa League porta a sentirsi un posto in Champions, quindi l'Europa League è snobbata fino agli ottavi, così, perché magari poi quando uno arriva agli ottavi o ai quarti diventa una competizione molto importante. Ma questo mi dispiace, anche perché non lo sapevo di essere squalificato, quindi è la prima volta in vita mia che sono squalificato senza saperlo. L'intensità inizia con gli attaccanti, alla squadra tante volte manca questa intensità difensiva che permette all'avversario fare un tiro in porta. L'Europa League è un'opportunità per tutti, è una competizione interessante a cui vogliamo ben figurare e andare avanti il più possibile. In questo momento siamo qui perché vogliamo arrivare a chiudere la qualificazione da prima in classifica. Torino non può prescindere dai propri tifosi e quindi mi auguro che i tifosi, uso una frase che ho detto, che prendano per mano i miei giocatori, che gli diano veramente una mano, che si sentano protagonisti di un passaggio di turno loro, che è un sogno che mancava da 20 anni. Quindi voglio dire, sarebbe bello che si riprendesse insieme una strada, cioè si riprende, in realtà non è che l'abbiamo mai interrotta, cioè, devo essere sincero, però in questo momento credo che in tante occasioni magari è stata la squadra a prendere, a coinvolgere il tifo. In questo caso sarebbe bello che il tifo prendesse per mano la squadra, sarebbe un segnale assolutamente importante. Sì, perché questa sera c'è anche l'Europa League, ore 19 Sparta-Praga-Napoli, Ginghamp-Fiorentina, ore 21:05 Inter-Dnipro e Torino-Bruges. 800 24 00 24. Vi devo dire che mi sono stupito, carissimo Pier, per la prima volta ho sentito un allenatore italiano dire vogliamo vincere l'Europa League. Era Roberto Mancini. Certo. È la prima volta, è una piccola rivoluzione epocale. L'anno scorso noi abbiamo passato la primavera sentendo Conte dire che contava il record dei 100 punti, che l'Europa League era un di più. È la prima volta che sentiamo un allenatore di una squadra italiana che sulla carta ha tutto per provare ad arrivare in fondo dire insomma, l'Europa League è una competizione da vincere. Io sono convinto che se la Juve avesse vinto l'Europa League adesso Conte non sarebbe l'allenatore della nazionale, perché secondo me avrebbe avuto un'offerta per certi versi, non voglio dire più importante, perché più importante della patria non c'è nulla da un certo punto di vista, però secondo me avrebbe avuto un mercato all'estero che in realtà poi di fatto non ha avuto, anche se ci sono stati sicuramente dei sondaggi, ad esempio col Manchester United, posso darvelo per certo, però insomma sono d'accordo con te, è anche la prima volta che l'Europa League vale un posto in Champions, e quindi probabilmente c'è anche questo tipo di atteggiamento diverso, no? Rispetto a questa competizione. La Liga è quello che possiamo fare noi oggi, è molto triste, è la competizione che oggi le squadre italiane possono vincere, in attesa speriamo presto che passi a nuttata e che quindi si possa tornare ad essere competitivi, a pensare di poter vincere anche la Champions. Oggi questo è quello che possiamo fare, e soprattutto poi quindi questo vale secondo me per l'Inter e per il Napoli e per la Fiorentina, che sono le tre squadre italiane sulla carta un pochino più forti delle quattro in Europa. Io non me ne voglio il Torino, perché hanno la possibilità di vincerla. Il Torino però, a maggior ragione, io non credo che debba rischiare nulla in campionato, secondo me dovrebbe fare dell'Europa League la priorità assoluta della stagione, perché da questa sera ci aspettiamo tanto dal Toro, ci aspettiamo una vittoria che vuol dire qualificazione quasi. Sì, potrebbe anche significare qualificazione, c'è il solito discorso delle permutazioni, bisogna vedere che succede fra Helsinki e Copenaghen, ma insomma questi sono dettagli. Io credo che il Torino stava facendo un ottimo girone, poi si è suicidato a Helsinki, la squadra che aveva perso le prime tre partite, ha perso questa quarta giornata in Finlandia, adesso deve ricominciare da capo contro il Brugge, che in questo momento è in testa al girone. Però voglio dire, in assoluto io sto studiando appunto per parlare Torino-Brugge, vedo che c'è un meccanismo di rotazione che Ventura giustamente fa fra campionato e Europa League, ci sta come ragionamento per gestire bene le energie. Per me la priorità del Torino dovrebbe essere l'Europa League, perché in campionato adesso i tifosi del Toro facciano tutti gli scongiuri del caso, secondo me non rischia e non ha però neanche la possibilità di diventare una squadra che può andare in Champions, e quindi l'Europa League a quel punto, tra arrivare noni e arrivare tredicesimi, non cambia niente. In Europa League invece ti puoi divertire, puoi fare grandi incassi, puoi regalare emozioni ai tifosi, che poi è il motivo originario per il quale si è cominciato a giocare a pallone, per il quale si gioca anche tutti i campionati, prima dei soldi. Si scanna, no? Per arrivare in Europa, per avere quella vetrina. Soldi, quando eravamo bambini che c'era la Coppa UEFA e poi giocavi per vincere delle partite, perché era figo andare a giocare la Coppa UEFA o la Coppa delle Coppe, perché era bello, perché era divertente, indipendentemente dal tipo di introito che potevi avere, al di là del fatto che poi un indotto d'Europa League c'era sempre, perché un po' di soldi ti arrivano, in più ci sono gli incassi e soprattutto c'è la visibilità che tu dai ai tuoi giocatori, per cui se un domani li devi vendere, se fai una buona avventura in Europa, ti guardano, hai più mercato, hai più possibilità di fare cassa, quindi anche da un punto di vista proprio strettamente imprenditoriale è una competizione molto importante. Poi certo, se il Torino dovesse trovarsi o molto in alto in classifica o molto in basso, scattano discorsi diversi, puoi fare altri ragionamenti, ci sta. Però la verità è che noi questa sera ci aspettiamo meraviglie dal Toro, dall'Inter e dal Napoli, che sono al bivio del loro girone. Sai quante volte, Pier, nelle ultime 10 Champions ha vinto una squadra che non era tra le prime 5 come fatturati? Nelle ultime 10 Champions? Sì. Te lo dico io, allora, 4 volte. Ecco, il Porto sicuramente. Esattamente quanto è accaduto a chi stava sul podio dei ricchi. No, questo per dire, tu hai ragione, forse la Champions è troppo per noi, però non è che la Juve sia una cenerentola a quel gran ballo, sì, la Juventus. Sì, no, la Juve non è una cenerentola. Ha più o meno il rapporto di fatturato rispetto al Real Madrid, che aveva l'Inter del triplete quell'anno rispetto al Real Madrid, che era sempre la squadra più ricca. Sì, però ti posso dire, se no ci abituiamo anche noi a dire che non possiamo farlo, certo. Invece gli altri lo fanno, l'Atletico, il Borussia Dortmund e tutti gli altri. Hai ragione, no, ma se parliamo di fatturati sicuramente sì, se parliamo da un punto di vista tecnico, secondo me le ultime 3-4 stagioni, io non so se sei d'accordo, hanno visto una si è radicalizzata. Ecco, si è radicalizzata, cioè ci sono delle squadre con le quali è diventato ingiocabile. Però cominciamo noi a dire che insomma, certo. Non è vero che siamo proprio con 10 euro in un ristorante da 100. Ma poi il calcio è fatto di idee, di tattica, di tecnica, questa, di fortuna. Questa. Assolutamente. Massimo da Treviso. Euro. Massimo. Buongiorno. Prego. Ecco, mi ricollego a quello che avete detto adesso. È vero che c'è differenza, però nelle ultime due finali di Champions ci sono state il Borussia Dortmund, che ricordiamo ha perso 2-1 la finale con un gol di un gran gol di Robben nel finale. E l'anno scorso l'Atletico Madrid, che ha perso sappiamo come. Quindi quello che a me è piaciuto, volevo dire questo, di Allegri quest'anno è che fin dalle prime conferenze stampa, a differenza di Conte, lui ha parlato di una Juventus che certo inferiore come fatturato rispetto alle prime 4-5 d'Europa, che però se la può giocare con tutte. Invece io mi ricordo di Conte, grandissimo allenatore, io sono juventino, quindi ci ha ritirato in qua, e onore a Conte, però ha sempre parlato del campionato come primo obiettivo e la Champions come un sogno, me lo ricordo benissimo, le parole erano sempre queste, un sogno. Secondo me nella testa dei giocatori, cioè, stiamo parlando comunque di una squadra importante. Sì, sì, ma definire la Champions un sogno, Massimo, mi sembra sia un mind game, cioè sì. poi le valutazioni tecniche devono essere altre, e ci riallacciamo a quello che abbiamo detto per tutta la prima ora. Roberto dalla provincia di Parma, Roberto. Buongiorno, grazie per la convocazione. Prego. Io dicevo che non è così importante primo o secondo posto, il primo posto è più importante per la Juve che per l'Atletico, perché l'Atletico, anche se arriva secondo, non può incontrare le due eventualmente spagnole, Real, sì, e Barcellona. Vero. Quindi per la Juve, cioè, l'Atletico può star bene, addirittura l'Atletico può scegliere tra primo e secondo, perché beh, secondo me può trovare un Paris Saint-Germain anche come seconda. La Juve ha quattro squadre impossibili, eventualmente l'Atletico ne avrebbe due. È vero, è verissimo ed è molto arguta la cosa. Detto questo, poi se becca il Bayern e poi ci parla lei col Ciolo, le diamo il telefono. No, è abbastanza vero, però per esempio ci sono Bayern e Chelsea che sono due squadre da evitare, di là magari, cioè la probabilità, il discorso che lei fa è giustissimo. Detto questo, in ogni caso io fossi Simeone vorrei arrivare primo, perché comunque la probabilità di pescare una grande squadra è sicuramente minore. Sì, le seconde che si prospettano, c'è il Basilea o il Liverpool, vedremo, c'è Liverpool-Basilea l'ultima giornata, però il Liverpool deve vincere, c'è una seconda sicuramente abbordabile nel girone C, quello di Bayer Leverkusen, Monaco e Zenit San Pietroburgo, forse è abbordabile anche la prima, lì quello è uno di quei gironi, sì, dove la differenza tra prima e seconda è relativo, come potrebbe esserci l'Arsenal, potrebbe esserci il Paris Saint Germain, poi c'è lo Sporting Lisbona, lo Schalke, e poi c'è lo Shakhtar, insomma è un po' meglio, dai, meglio. Stiamo parlando di un sorteggio diverso, insomma. Il discorso che faceva è giustissimo, perché chiaramente negli ottavi di finale non si può affrontare una squadra del tuo paese, e quindi chiaramente Real Madrid ed eventualmente Barcellona, che poi non si sa se arriverà primo o secondo, al momento è secondo del girone, non le potrà comunque affrontare, quindi il discorso ci sta. Marco ci ricorda che stasera a Stadio Bentegodi di Verona c'è Italia-Olanda femminile, valida per le qualificazioni mondiali. Ce lo ricordiamo, magari domani chiamiamo il CT, Cabrini. Oh, intanto fammi chiedere a Luca Valdiserri se è finito il terzo tempo della Roma. Luca, ciao. Ma spero di sì, col freddo che faceva. Hai sentito Sabatini? Le parole di oggi, io le ricordo, avevamo dato il permesso di stare due ore fuori, poi magari qualcuno è stato due ore e mezza, però noi siamo una società liberale, dopo i risultati che arrivavano da Manchester i ragazzi avevano bisogno di distrarsi un po', è bello che l'abbiano fatto in amicizia, facendo insieme qualcosa di godibile. Questa è la spiegazione della Roma, che dice non c'è nessun caso. Godibile fa ridere, però sì, però l'ha detto, ma sì, ma io sono d'accordo al 100%, mi fa ridere godibile, perché insomma fa pensare al verbo godere, uno magari chissà che pensa, però insomma Luca, basta, sarà stato godibile, basta Sabatini pompiere per spegnere l'incendio, sì, basta avanza, ma tanto tutto dipende da come andrà la Roma Inter, poi quello è, se la Roma batterà l'Inter ci sarà qualcuno anche che dirà facciamolo tutte le settimane come rito propiziatorio, se solo la Roma pareggia e la Juve vince vedrai che succederà un bel casino, però io sono assolutamente convinto che quello che è stato fatto, quello che c'è stato fatto non ci sia nulla di male, ma che però se lo evitavano mettevano meno pressione a se stessi, alla squadra, alla società, in un momento in cui la Roma, pur essendo in corsa per tutto, oggettivamente sta facendo un po' di fatica, allora meglio sarebbe stato non farlo, però non trovo nulla di sconveniente in quello che hanno fatto, tanto più a Mosca, dove nel senso i locali qualche tentazione c'è. Sì, e a certe ore della notte quelli sono, insomma, i locali, non è. Ma sì, e poi quella è stata una giornata davvero, io poi l'ho vissuta in albergo, io non sono andato al Gold Egoist, però siamo sicuri, Val di Serri? Sì, sì, sì, cioè ci sono le prove fotografiche. Ma al di là di quello, io davvero fino a l'una di notte moscovita, perché naturalmente ci sono due ore diverse di fuso orario, siamo stati tutti lì. Fra l'altro nell'hotel della Roma non si vedeva Manchester City Bayern. Meglio. Per cui è meglio, però insomma davvero c'era la gente che si chiedeva, guardava il sito della UEFA, i telefonini, per cui è così. Sono andati via alle 2 di notte perché prima chissà cos'altro facevano. Sono andati via alle 2 di notte fino all'una sono stati lì tutti quanti a vedere, noi per lavoro, loro perché comunque, anzi anche loro per lavoro, come andava a finire. Poi dopo tra l'altro 2 di notte di Mosca, che per chi veniva mezzanotte, tocca e fuggi dall'Italia, significa mezzanotte. E sì, quelli della Roma non sono certamente gli unici giocatori che dopo lo stress di una partita fanno fatica a prendere sonno, ma adesso fateci fare perfetto. I difensori dei giocatori della Roma. È stato perfetto Pruzzo, da ex calciatore, che ha detto: a Mosca è così, e poi nei locali quando ci vuoi dare alle 4 del pomeriggio, questo è. Poi uno può anche non andare nei locali e starsene in albergo, leggersi un libro, guardarsi un film o giocare a carte. Quello, ognuno fa quello che vuole. I risultati della Roma di quest'anno, fin qui, Luca, non so se sei d'accordo, non meritano assolutamente di essere visti con la lente del moralismo. La Roma non è una squadra in crisi, sappiamo che il calcio vive di equilibri, no? Nel senso che comunque ci sono delle piccole prevaricazioni alla libertà del lavoratore, chiaramente un lavoratore fortunato, il calciatore, non ci sono dubbi che in certe situazioni sa benissimo di non farsi vedere, cioè deve avere delle precauzioni, ma insomma la stagione della Roma fin qui è una stagione positiva, non è una squadra in crisi, è una squadra che sta facendo il suo e che secondo me anche l'altra sera ha fatto il suo dal punto di vista della prestazione, per cui di che stiamo parlando? Tra l'altro non sarebbe cambiato quasi nulla con la vittoria del Manchester, perché poi dopo noi viviamo la beffa di quell'ultimo minuto pensando che quel gol preso è costato la qualificazione immediata, in realtà avendo vinto il Manchester comunque sarebbe stata una partita complicata da approcciare, quella del 10 dicembre City, all'Olimpico. La beffa il City, perché se il City avesse perso la Roma poteva molto probabilmente, in caso di sconfitta molto probabile, il CSKA a Monaco perdere con due gol di scarto in casa e passare il turno, quindi era importante, era clamoroso. Detto però, questo, il calcio capita. E guarda, c'è una cosa per cui mi prendono anche un po' in giro qua a Roma, che io chiamo, come esiste la media inglese, no? Esiste la media Val di Serri. Allora, se tu guardi le classifiche di quest'anno e dell'anno scorso, la Roma ha fatto meno punti, però io ne ho fatta un'altra, cioè se tu prendi le squadre che ha affrontato la Roma in casa o in trasferta e ti cambio Bologna con Cesena e Livorno con Empoli, che mi sembrano anche dei confronti proponibili, ci stanno, no? Certo, ci stanno. La Roma quest'anno con queste avversarie ha fatto 2 punti più dell'anno scorso. No, ti posso dire che sembrano i parametri di Mazzarri? La Roma ha 28 punti, ma no, di che stiamo parlando? Cioè, è come quando è stato criticato Allegri dopo che ha perso a Genova col Genoa. Ci sono dei numeri che sono però il ragionamento fila, ha già fatto trasferte più pesanti delle prime 12 punti dell'anno scorso, avendo già giocato a Napoli e a Torino, dove l'anno scorso ne ha fatti 0, no? Per cui è assolutamente, ti ripeto, è paradossalmente è più avanti dell'anno scorso con questi avversari. Poi lo so anch'io che sta giocando peggio, ma questo nasce da tante cose, dagli infortuni, dal mercato, dal fatto che alcuni giocatori che pensavi potessero avere un rendimento immediato invece non ce l'hanno. Il primo di questi sicuramente i Turve, che però, come dire, è un giocatore giovane, va aspettato. Poi da noi non si aspetta mai niente di nessuno, e allora immediatamente Sabatini diventa quello che ha speso 30 milioni per un ragazzo che con beata gioventù e beata sua leggerezza si è autodefinito una pippa, no? Sì, però assolutamente. Però vedrai che i Turbe magari a primavera sarà l'arma vincente, non lo so, vediamo. Sì, nell'attesa si aspetta il ritorno del vero Cervinio, perché quello che c'è in questo momento deve essere il fratello, il fratello un po' più scarso. Cervinio, Cuadrado, Palacio, I giocatori che sono tornati dal mondiale stanno facendo tutti un po' fatica, no? Certo, no, ma guarda, tu pensa sono... Palacio, che poi adesso farà 3 gol domenica sera a Roma, però non ha ancora segnato, no? Sì, sì, il mondiale segna nelle gambe e non solo. Il mondiale si paga. Io credo che il della Roma è se la Juve decolla, cioè la vera preoccupazione che deve avere la Roma in testa, ma ci può far poco, è capire se questo nuovo assetto che Allegri sta dando alla Juve, che onestamente dà la sensazione di funzionare fin qui e di essere qualcosa di diverso, dovesse durare, perché se dura questo effetto allora diventa complicata. Un altro problema sicuramente la Coppa d'Africa, che comunque toglierà 2 giocatori importanti. Un problema è che chiaramente a Castan non è che gli puoi chiedere di tornare fra un mese, non lo può fare, e gli facciamo per l'ennesima volta un grande in bocca al lupo. Quindi i problemi strutturali ci sono. Detto questo, se valutiamo la stagione, media Val di Serri o non media Val di Serri, ma è un'ulteriore conferma, questa squadra sta facendo bene. Allora, io sono un romano che vive a Milano, Val di Serri o milanese che vive a Roma, penso che incrociando queste due esperienze, conoscendo un po' l'ambiente di Roma, io quello che mi sento di dire è state sereni, perché veramente farsi del male adesso, night o non night, polemiche sui turbi o su Ashley Cole oppure no, è folle per una squadra che ha 28 punti e in Champions League nessuno avrebbe pensato a 90 minuti dalla fine di essere in grado di qualificarsi. Anzi, avrebbero messo tutti una firma, tifosi della Roma e non. Fammi salutare Luca Valdiseri. Ciao Luca, grazie. Alla prossima. Pier. Diga, ci sei? Qua. Ti saluto, però mi devi fare il pronostico delle 4 di stasera. Vai. Sparta-Praga-Napoli. X. Insomma, risultato che complicherebbe un pochino la vita del Napoli. Sparta-Praga è la squadra più forte. No, all'ultima c'è lo Slovan in casa, dai. Ginghamp-Fiorentina. Questa vale solo per il primo posto. Sì, vince il Ginghamp. Inter-Dnipro. Inter-Dnipro vince l'Inter. E Torino-Bruges. Complicatissima pareggio. Pareggio, dai. Speriamo vinca oltre 4, questo sta va San Dir, come dicono i francesi. Ci sentiamo domani, ciao Pier. Ciao. Tutti convocati. Palermo che corre ed è frizzante in velocità, Dybala va via secco a Zapata che cade, Dybala! 2-0 per il Palermo in 2 minuti, prima l'autogol di Zapata, poi Paolo Dybala, sesto gol in Serie A e 2-0. Diciamo che stiamo osservando, stiamo monitorando un po' tutti. Dybala è un calciatore che potrebbe diventare italiano, no? Ma aspetta lui, così come anche Vasquez stesso, no? Quindi sono scelte personali che è giusto che le faccia il calciatore. Se dovesse poi pensare di diventare italiano, noi saremo ben contenti e felici. Mi piacerebbe sapere anche cosa ne pensate del tentativo di Conte e della Federcalcio di mettere la maglia azzurra su un attaccante giovane, bravo, promettente, che ha una nonna italiana ma che fondamentalmente è argentino, come Paul Dybala. Tentativo che Conte sta facendo oggi a Cagliari, ieri era a Palermo e ha detto quelle parole lì. A me non piace, però a me non piace neanche la retorica di chi dice allora togliete l'inno prima delle partite della nazionale. Io ricordo Spagna al mondiale con Diego Costa, che era un brasiliano, Francia all'ultimo mondiale con 16 giocatori naturalizzati, 16, e giocatori importanti, o anche la Germania, Özil e Khedira, che di fatto hanno origini turche, Podolski, che è un giocatore nato in Polonia da genitori polacchi. 800-24-00-24. Detto questo, aspetto il momento in cui sapremo crearci il centravanti del futuro a casa nostra. Giovanni da Rimini, Giovanni. Salve. Ti piace Dybala con la maglia della nazionale? Sì, penso che sarebbe un buon acquisto. Ma però io volevo chiedere sulla Juventus, sì. Secondo voi che percentuale ha la Juventus di passare con l'Atletico? Perché secondo me di passare il turno molto dura. Di sì. Passare il turno? No, di passare il turno basta anche un pareggio. Paradossalmente può anche perdere la Juventus se non vince l'Olympiakos. Di passare il turno La Juventus oggi credo abbia, Giovanni, il 70-80% delle possibilità. Diverso è invece puntare al primo posto nel girone, e per puntare al primo posto del girone si deve passare attraverso una vittoria con un paio di gol di scarto, e questo significa approcciare con una certa mentalità, prendersi anche qualche rischio. Io non so se Allegri sia disponibile a farlo, io non so nemmeno se i tifosi juventini lo vogliano, Giovanni. Secondo me sarà molto molto difficile solo pareggiare, riuscire a pareggiare, però speriamo, insomma. C'è un pessimismo. L'Atletico Madrid forse si è dimostrato superiore a Madrid all'andata, però anche quella è stata una partita molto equilibrata, molto più equilibrata di quanto poi non abbia detto il punteggio finale. Tony Cairoli, ciao. Ciao. Non ti chiedo niente della Juventus, 8 volte campione del mondo di motocross. Sei juventino? No, non ti interessa niente, sì, del calcio. Sì, il calcio seguo poco, però dai, simpatizzante. Simpatizzante juventino, e quindi simpatizzante contento per ieri sera. Ma non mica tanto, per me hanno giocato abbastanza, non benissimo, dai, però la Juve è morta, speriamo che ritorna. Non c'è stato nulla di epico. Ci sarà, no, qualcosa di epico domani e domenica al Rally di Monza, dove tu sfidi Valentino Rossi nella sfida tra i nostri due grandi piloti delle due ruote. Sì, dai, questo bellissimo evento qui a Monza, ci sono tantissimi piloti anche non rallisti come io, Valentino, e tanti altri che ci daranno un po' battaglia, ecco, qui sul circuito. Speriamo di avere tanti fans a bordo tracciato, ecco. Ma sei più forte tu o va più forte lui? Una bella domanda. Ovviamente lui ha molta più esperienza su queste quattro ruote con l'asfalto, quindi è un po' avvantaggiato lui, però per me è la seconda volta che salgo, diciamo, sulla macchina da rally, quindi c'ho ancora tanto da imparare, però me la cavo bene, dai. Speriamo di migliorare. Com'è finita l'anno scorso? L'anno scorso settimo, quindi speriamo quest'anno di finire nei cinque. Beh, insomma, settimo alla prima esperienza. Non male. È già un buon risultato. Ho letto da qualche parte che poi magari in un futuro i rally, le quattro ruote, potrebbero anche essere uno sbocco di carriera per te. Ma più avanti sì, sicuramente cercheremo di essere competitivi anche là, perché è la seconda mia passione, ecco. È presto, però tu hai 29 anni, no? Sì, è presto ancora, mi piace dedicarmi al mio sport principale, il motocross. Mi aiuti a capire perché il rally attira così i piloti delle due ruote? Perché quello che dici tu oggi è la stessa cosa che diceva Valentino qualche anno fa. Sì, perché è uno sport molto adrenalinico, il rally, poi ha molta stesse sensazioni, ecco, l'aderenza, la perdita di aderenza, il controllo della macchina, della palla, ovviamente si addice molto alla guida del cross specialmente, ma in generale della moto, ecco. Intanto però nel mirino c'è il nono e decimo titolo, tu sei a 8. Ho letto che l'anno prossimo arriva un finlandese fortissimo. Sì, ci sono, non sarà facile, nuovi arrivi, però noi siamo sempre motivati, ecco, per essere lì davanti, ecco, per un altro titolo mondiale, ecco. Parti da favorito anche l'anno prossimo? Sì, speriamo di arrivare davanti, ecco, anche l'anno prossimo. Che obiettivo ti sei dato? Tu che a 29 anni ne hai già 28 di mondiali, viene anche da chiedere come si trovino le motivazioni per continuare a ragionare, per cercare di essere il più forte, il migliore. Ma le motivazioni arrivano principalmente nel mio caso dalla passione per questo sport, che per la moto in generale, che ha trasmesso la mia famiglia, che ogni giorno quando mi sveglio è il primo pensiero che ho, e quindi anno per anno c'è sempre l'obiettivo di migliorare sia la guida che i risultati, ecco, quindi c'è sempre la motivazione, che non è difficile trovare nel mio caso. Non ti è mai venuta la tentazione di fare il salto sulla pista? No, quella mai. Mai? È più facile o più difficile la pista rispetto al motocross? Sicuramente è sempre uno sport a quel livello che lo fanno i campioni, che è sicuramente difficile, però lo sterrato, il cross è più difficile. Sicuramente più spettacolare. Grazie Tony. Prego, grazie a voi. Ciao. Grazie Tony Cairoli. Domani e domenica al Rally di Monza la sfida con Valentino Rossi. C'è chi dice: quando nel 2006 abbiamo vinto il mondiale con Camoranesi, come la pensavi? No, ma io la pensavo esattamente come adesso, cioè non è bello, sarebbe meglio che fossero tutti italiani al 100%. Dopodiché, ripeto, il mondo va da un'altra parte e quindi non capisco perché l'Italia, non capisco perché Antonio Conte dovrebbe privarsi di un'opportunità assolutamente lecita, assolutamente legale. Massimiliano da Bologna. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Prego. Guardi, io vorrei tornare un attimo sull'argomento Roma, anche se indirettamente, faccio una piccola premessa, io sono un tifoso del Bologna, per cui non ho particolari frustrazioni da Champions, ma volevo una vostra opinione sui due gol che ha preso il Bayern Monaco a 5 minuti dalla fine in quel modo. Cioè, secondo me, adesso non so se ne avete già parlato ieri o oggi, la vera impresa è aver preso due gol così, più che l'impresa del Manchester City. Per cui volevo appunto un commento su un episodio. Ha preso due gol, secondo me, Massimiliano, senza malizia, che prende una squadra che non smette mai di giocare, neanche in 10 contro 11, avanti 2-1, a tempo che oramai sta scadendo. Tante squadre avrebbero semplicemente controllato, il Bayern Monaco no. Però questo è il bello e anche il brutto delle squadre di Guardiola, Massimiliano, a meno che non si voglia essere maliziosi. Pensare che ci sia dietro un disegno, no? Due indizi fanno una prova, nel senso che uno posso capire, cioè quel passaggio centrale che non ricordo quale. Sì, Xabi Alonso, cioè. Però quel passaggio centrale è identico al passaggio centrale di Muntari con Icardi, minuto numero 10 del derby di domenica sera. Allora vogliamo anche ragionare che Muntari abbia sbagliato apposta quel pallone, non si capisce per quale motivo. No, secondo me evidentemente il Bayern Monaco poteva gestire in maniera diversa la partita di Manchester, non l'ha fatto, però questo è il Bayern, tra l'altro una squadra che ha mostrato un'assoluta superiorità anche in una partita che per lei non contava nulla. È una partita affrontata per più di un'ora in 10 contro 11. Io credo ci sia questo e non ci sia nient'altro dietro i due errori che poi hanno spianato la strada al Manchester City e hanno reso un po' più complicato il cammino invece alla Roma. Tutti convocati. Lui, Roberto, ancora incredibile! Eccezionale! È stato un regista eccezionale, non in campo, ma dietro al mixer. Roberto Scaltritti, oggi per lui è l'ultima puntata di Tutti Convocati. Robby, come farò senza di te? Come faremo senza di te, senza il tuo tocco magico? Vabbè, basta, non esageriamo, sono tutte stupidate. Come stupida, questa era una delle nostre basi preferite. La chiamavamo Allegra Fresca, davamo dei nomi alle basi che solo noi sapevamo identificare, solo noi sapevamo ritrovare, giusto così per creare un po' di confusione poi nel caso di qualche sostituzione. Vabbè, Robby, quante puntate avremo fatto? 500, 600, 700? No, circa 600. Non mi ricordo più. Sei stato uno. Siamo stati in tre, io, te e Carlo, che abbiamo inventato questo programma. E vabbè, oggi te ne vai. Hai scelto una vita agreste fatta di campagna, eh? Te ne vai a vivere in campagna. È come Renato Pozzetto, ma al contrario. Cioè, tu prendi il trattore e te ne vai dalla città, Milano, e te ne vai in campagna a fare non so che cosa. Comunque, no. Fai bene, fai quello che vuoi, buona vita, e ci mancherai molto. Roberto, eccezionale, parate incredibili, questo programma da oggi non si sa se sarà ancora lo stesso senza il tuo tocco magico. Ciao Roby, ciao. Oh, non è morto, però anche tu, Franco, mamma mia, un po' di... Che è morto? No. Il epitaffio di Roberto. Non è morto. Ma in realtà non me ne vado. No. Ha una voce! Ha una voce dopo due anni, dopo no, quasi tre anni. Non ha solo due mani, non ha solo due mani, una testa, ha anche una voce. È che cercavo un modo per entrare qua a parlare con voi. E quindi ha dato delle finte dimissioni. Carlo ha dato delle finte dimissioni. Come? Non ce l'abbiamo fatta. No, ma la tragedia è che purtroppo le dimissioni sono vere. Quindi la nostra vita non sarà più la stessa, ma ce ne faremo una ragione, insomma. Sì. Faremo un minuto di raccoglimento qui fuori. Vabbè, dai, alla fine della sigla. Scaltriti, ti ascolterà tutti. Guadagniamo un ascoltatore. Sì, ecco. Facciamo così. Lo sai il numero di telefono? Dai, dillo in diretto il numero di telefono. Dai, dì le cose che hai imparato in questi 5 anni. Ma non lo sa, non lo sa. 8 8 4 no. 8, ma manco tu lo sai. 800 24 00 24. Ma raccontiamo cosa fa un tech. No, sto scherzando. No, no, perché sennò Giampaolo da Monza scappa. Oh, vai, vai. No, però davvero Roby è stato l'anima, insieme a Franco, insieme a Carlo, poi io indegnamente ogni tanto intervengo, di tutti i convocati, di quello che avete sentito in onda in questi anni, che vi è piaciuto, perché altrimenti non saremmo qui, vero Carlo, no? E quindi si gira una pagina ed è importante sottolinearlo. Beh sì, me lo auguro, cioè, Roberto Scaltritti ha partecipato con noi fin dalla prima ora e adesso ha trovato di meglio da fare, va a vivere su una spiaggia e a vendere bibite a Cuba, no, con le spiagge. Quindi... Ma sei un po' invidioso. Va a vivere in un paradiso fiscale. Sì, sì, sì, certamente, no, certamente. No, comunque, insomma, parlando seriamente, gli ascoltatori devono a lui e a Franco tutti quegli effetti sonori, quelle magie musicali che siamo abituati tutti i giorni a sentire. Poi è chiaro che resteremo, ci sarà il capitano Fabio Cantadore o chi per esso, e insomma, l'ho detto prima, perdiamo un grande regista ma guadagneremo un grande ascoltatore. Quindi adesso ce ne facciamo una ragione. Ma facciamogli rispondere all'ascoltatore, dai, dai, facciamo rispondere. Radio Verità, è il sogno, vai, di tutti i tecnici. Un giorno, quando passerà Miglior Vita, lo farà anche Fabio Cantadori. Giampaolo da Monza. Sì, eccomi qua. Eccoci qui. Roby Scaltritti è qui per te. Prego, Giampaolo. Ecco. Ma volevo dire due cose abbastanza, diciamo, curiose, nel senso che la prima era legata alla Juventus. Secondo me, come diceva anche l'altro vostro ascoltatore, qualcheduno è tornato dal mondiale un po' bollito, tra virgolette, e all'inizio della stagione subito qualche juventino, soprattutto il cileno, si è dimostrato un po' in confusione. Tanto è che mi sembra Allegri non l'abbia subito posizionato nella parte giusta. Scaltritti sta chiedendo chi è il cileno, eh? Noi traduciamo Vidal. No, perché lui pensava che Pereira, esatto, fosse cileno. Certo, dai, no, dai, certo. Prego, Giampaolo. Sta prendendo sia appunti e poi risponde. Sia Vidal che Tevez mi è sembrato che nelle ultime partite le abbia lasciate un po' liberi per il campo senza dargli una posizione. Secondo me questa è una critica che si può fare ad Allegri, che per il resto invece si è dimostrato molto più reattivo rispetto a quanto. Mentre per quanto riguarda a Toni Cairoli, credo che l'anno prossimo sia il mondiale cross in assoluto più bello, perché ci sarà finalmente questo scontro che tutti noi appassionati di moto ci aspettiamo, che è l'arrivo in Europa di Willow Poto in sella alla Kawasaki, che si scontrerà con Cairoli in sella alla KTM, che sono in assoluto in questo momento i piloti più vincenti, e avranno modo di scontrarsi per stabilire finalmente avremo modo di divertirci tutti. Oh, esatto. Risposta sulla Juventus invece. Sì. Vidal è cileno, è arrivato un po' bollito, poi Allegri. No, lui vorrebbe parlare della Roma e dei romanisti che sono nati nel nightclub. Questa è l'unica cosa che mi interessa. Assolutamente giusto. Assolutamente giusto andare al nightclub. I ragazzi di 20 anni si divertono. Carlo, dimmi. No, sono trovi giusto anche tu, no? Trovi giusto anche tu nelle tante trasferte da giornalista che hai fatto. A lui lo chiedi. In Russia poi. No, io ho trovato molto interessante la seconda parte della la Russia, certo. La seconda parte della domanda dell'ascoltatore, cioè della domanda della affermazione dell'ascoltatore. L'anno prossimo sarà una specie di confronto diretto nel mondiale motocross. Tu sai che io sono molto appassionato di moto, quindi questa domanda mi ha particolarmente intrigato più della parte relativa alla Juventus. No, sì, comunque è un grande giocatore, come fai a toglierlo? Ma poi è indubbio che sia tornato con altri pensieri, ma forse anche la Juventus aveva altri pensieri nei suoi confronti quest'estate. Carlo, però io non ti lascio andare prima di avermi fatto il pronostico su questa sera, così poi domani controllate. Allora, il Napoli gioca a Praga. Napoli gioca a Praga e vince. Vince. La Fiorentina gioca a Ginghamp. La Fiorentina gioca a Ginghamp e perde 1-0. Perde? Oh, sei come Pierre, ottimista. L'Inter gioca in casa con la Dnipro. L'Inter gioca in casa con il Dnipro e vince in maniera, secondo me, anche agevole. E poi Toro Bruges. E poi Toro Bruges. Toro Bruges non la vedo benissimo. Non la vedo benissimo, no, perché il Torino è in un momento molto complicato. Il Bruges è una squadra abbastanza seria. Il calcio belga abbiamo sempre qualcosa di difficile da affrontare, quindi il Torino massimo un pareggino, ma allora, ci mettiamo un pareggino, poi domani poi controlliamo domani su quattro, magari una l'avete presa. Grazie Carlo. Ciao Giovanni, ciao a tutti, ciao Roberto Scaltritti. Ciao. Carlo che domani torna a questi microfoni. Oh, abbiamo finito, possiamo andare fuori a fare. È finito Roby? Ma poi in realtà noi ci vediamo un'oretta domenica. Ah, un'oretta ci vediamo, sì, allora sì. È tutta sta pantomima. Poi ci vediamo lunedì, in realtà non me ne vado. Nel frattempo di là nel mixer c'è del fuoco, sì. Fiamme, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno, stiamo andando in onda in autogestione. No, dietro la corte. Abbiamo finito, appuntamento domani dopo il GR delle 14, questa sera c'è l'Europa League. Un ringraziamento anche a Daniele Buonamici, che oggi è stato in redazione. Domani torna Carlo Genta. Ciao Franco. Ciao, mi mancherà. Ciao. Arriva lui, Roberto, ancora incredibile. E saluto tutta la Filippogna, i filippini e le signore delle Filippine. Dottor Graham, lei è Moonlight Graham? Nessuno mi chiama più Moonlight Graham da 50 anni. Quando passò professionista, lei giocò un solo inning di una partita. Che successe in quell'inning? Era l'ultima partita della stagione. Alla fine dell'ottavo inning eravamo in vantaggio. Ero con la squadra da circa 3 settimane, ma non avevo mai giocato. A un tratto, il vecchio Joe McGraw punta il dito ossuto verso di me e mi dice: in campo. Sì, signore. Saltai su come se fossi seduto su una molla. Afferrai il guanto ed entrai in campo. La partita terminò. Capii subito che l'anno dopo avrei fatto tutto il campionato in panchina. E così decisi di ritirarmi. Fu come essere a tanto così da un sogno, che te lo vedi passare accanto e poi svanisce nel nulla. All'inizio non ci rimasi male. Uno non riconosce mai i momenti più significativi della vita quando capitano. Infatti pensai, avrò altre occasioni. Non mi rendevo conto che quella era stata l'unica. Generali Italia, soluzioni assicurative per te. Vediamo positivo. Vi ha presentato Convocati.